come a bit near, they leave. In Eclettica sto per fare qualcosa che ancora non ho fatto, pur non essendomi mai posto limiti di nessun tipo, questa penso di non averla ancora fatta. Però prima di arrivare a quel punto vi voglio ricordare che la voce che state sentendo è quella di Giulio Caperdoni tutti i giorni, fino al 31 di maggio, fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Anzi no, solo questa settimana fra le 19 e le 20. Poi per la prossima, dal lunedì al giovedì, saremo fra le 20 e le 21, ricordatevi questo orario. E poi invece il venerdì non ci sarà Eclettica al consueto orario, ci saranno degli ospiti a quell'ora che verranno a trovarci, sarà da qualche altra parte nelle ultime 24 ore, in orario ancora da definirsi, ma sarà un'Eclettica in edizione speciale. Prima di arrivare a quello che vi ho preannunciato, vi ricordo che abbiamo chiuso la prima parte con Adem, che rifaceva Aphex Twin, e poi abbiamo aperto la seconda, prima con i francesi Barth e poi con lo svedese Peter Moran, quello di Peter, Bjorn and John. Quindi vi rendete conto di come stiamo girando il mondo. Ora, vi ho creato un'aspettativa forse eccessiva, perché quello che sto per fare è semplicemente trasmettere un gruppo di Hong Kong, e non per un vezzo, ma perché questa canzone, come anche il disco da cui è estratta, non è niente male. Loro si chiamano Notes and Axes e sono all'esordio, un esordio di lunga durata intitolato Act 1, Scene 1, e in Eclettica vi state per ascoltare The Ghost. Vi ripeto il nome, Notes and Axes, da Hong Kong. Thank you. Emory Blaine ereditò dalla madre ogni tratto, tranne quei pochi sparsi e indefinibili che lo resero di qualche valore. Il padre, inefficiente e disarticolato, con una predilezione per Byron e l'abitudine di sonnecchiare sopra l'enciclopedia britannica, divenne ricco a 30 anni, grazie alla morte di due fratelli maggiori, agenti di cambio di successo a Chicago. E, spinto dalla prima sensazione che il mondo gli appartenesse, si recò a Bar Harbor, dove conobbe Beatrice O'Hara. Come conseguenza, Stephen Blaine tramandò alla posterità la sua altezza di 1,80 m scarsi e la sua tendenza a esitare nei momenti cruciali, caratteristiche che riapparvero nel figlio Amory. Questo era l'incipit di Qua dal Paradiso, di Francis Scott Fitzgerald. Yeah. a trovare qualcuno. Cambia il tuo modo di pensare. Mi fanno schifo tutti. Ci sarà qualcuno che hai voglia di rivedere. Su 7 milioni di abitanti ci sarà qualcuno che non trovi idiota. Sì, c'era Ghia, il mio amico d'infanzia che avevo voglia di rivedere. Quando ha aperto la porta ho capito cosa intendeva mia nonna quando mi ha detto: è quasi morto. Ghia ha fatto la guerra. Ha perso un braccio e una gamba. Mi sono divertita con lui. Abbiamo anche scherzato. E mi sono detta che le mie miserie non erano granché. Eh sì, tutta la sua vita era fottuta. Però riusciva a ridere. Immagino sia l'unico modo di sopportare l'insopportabile. Posso ripetermelo 1000 volte al giorno. Io non ci riesco. È insostenibile. Quello che ho vissuto mi pesa troppo. Ma con chi ne parlo? Capisce cosa intendo? Sono circondata da gente che ha sofferto. Ero una straniera in Austria e lo sono diventata anche nel mio paese. Vedo. La sua malattia ha un nome e si chiama depressione nervosa. Ci sono dei nuovi trattamenti molto efficaci. Le prescriverò dei farmaci. Maggio 2008. Vostra è la colpa. Di ostinarvi ad essere intelligenti in una società nel quale chi è premiato, chi arriva, chi ci riesce, è sempre il furbo. Di continuare a proporre programmi che si basano sulla qualità dei contenuti, su una musica sempre ad alto livello, su una comicità che fa ridere senza mai offendere nessuno, anziché su argomenti pruriginosi o sulle chiappe nude di una conduttrice. Vostra è la colpa. Di stimolare una curiosità positiva, ovvero quella che ha fame di cultura e non dei fatti altrui. Insomma, Vostra è la colpa di rivolgervi ad un pubblico al quale piace pensare e non alla grande massa di imbecilli. Ciao, Marco, Pioltello, patente numero 1506. Come sapete, di tanto in tanto vado a prendere quelli che sono o vostri mail o estratti dal forum o da altri spazi che si trovano su www.rockfamily.it. Quello appena letto di Marco era un mail arrivato a giulio@rockfamily.it, che vi ricordo è l'indirizzo di email da utilizzare per mantenere il contatto non solo da qua fino al 31 di maggio, ma soprattutto dal 1 di giugno in poi. Giulio Caperdoni, che sta per chiudere quello che è il quarto volume della settimana, l'ultima settimana regolare di Eclettica, poi la prossima ci sarà una variazione di orario dal lunedì al giovedì, lo ricordo ancora, tra le 20 e le 21 sarà il nuovo orario, e poi un'Eclettica edizione speciale nelle ultime 24 ore di Rock FM. Ci siamo appena sentiti The Plastic Constellations, quello che non mi lascia impassibile tutte le volte che lo ascolto, preceduto dai Dead Science con A Throne of Blood, The Jump Off. Per chiudere con una formazione, Section Shore, che negli Stati Uniti ha avuto i suoi 5 minuti di fama, forse anche più di 5 minuti, perché il brano che io ho scelto, e l'ho scoperto dopo averlo scelto, ha costituito il sottofondo di una pubblicità della Sony. Saxon Shore, che chiudono il quarto volume di Eclettica della settimana con Marked with the Knowledge. Eclettica, ultima stagione, penultima settimana, volume numero 4, indice, Gregor Samsa, Wintermute, Old Death, Aiden, Barth, Peter Moran, Notes and Exes, Dead Science, The Plastic Constellations, Saxon Show. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.